Allora disse Paolo, arrivederci a presto. Non è facile descrivere e dimenticare lo sguardo che mi dette Paolo. Già sapeva che era venne io. Ma sei sicuro, disse Antonio, che ci rivedremo? La domanda mi turbò molto. Cercai di mascherare il mio turbamento, la volsi un po' in tono scherzoso. Ma che stai dicendo, Paolo? Certo che ci rivedremo. E allora mi abbracciò, ma mi abbracciò con una forza che mi fece male. Mi strinse, non se ne rendeva conto. Mi abbracciò come a non volersi distaccare, come a volere tenere avvinto qualcosa di caro e portarselo via. Ecco, quello è stato. Lì ho sentito che era l'addio di Paolo. Altri morti sarebbero quattro, compreso il giudice, morti rimasti.